Recentemente Umberto Eco sull'Espresso ha dedicato la sua rubrica al libro di un tale, tale André Bernard, che ha raccolto le motivazioni con le quali gli editori hanno rifiutato sdegnosamente romanzi che dopo, a volte molto dopo, a volte presto dopo, comunque sono diventati celebri. Così si è tutti quanti invitati a meravigliarsi un po' e a scandalizzarsi del fatto che gente come Marcel Proust, come Flaubert, come Colette, come Henry James, come Faulkner o come Orwell abbiano ricevuto netti rifiuti e giudizi adeguati ai netti rifiuti per loro romanzi da parte di editori cui avevano avuto la pessima idea di rivolgersi. Ma che qualcuno abbia scritto che non riusciva a capacitarsi di come Proust potesse impiegare 30 pagine per descrivere come ci si giri e ci si rigiri nel letto prima di prendere sonno, beh, che qualcuno possa averlo scritto e pensato, o pensato e scritto, a me veramente né meraviglia né scandalizza. Dietro tanta meraviglia e tanto pudore offeso c'è infatti soltanto la strenua difesa della casta degli intellettuali e del loro storico apparato ideologico. Storico apparato ideologico che vorrebbe il valore di un'opera d'arte assolutamente intrinseco, stigma indelebile che distinguerebbe in modo palese l'opera di Proust da quella del mio portinaio, così come quella di Dante Alighieri da quella del suo portinaio, sempre che ne abbia avuto uno e che se lo pagasse lui. Sarebbe invece ora di buttare a mare tanta insopportabile sacertà dalle opere d'arte. Non ci si può venire a dire che ciò che la storia ci tramanda è l'esito di una lotta darwiniana in cui il migliore e il più adatto è sopravvissuto a tutto scorno del peggiore e del meno adatto. Nell'antologia, vedete, non ci finisce qualcosa che è di per sé meglio di un'altra che invece non ci finisce. Nell'antologia ci finisce la scelta dell'antologizzatore. E se questa scelta è stata compiuta perché l'antologizzatore aveva fretta, o perché non ci vedeva bene, o perché aveva ricevuto la busta paga dal padrone di turno, o perché era stato a letto con l'artista, o perché più ottimisticamente sperava di andarci, noi che siamo chiamati a inchinarci di fronte a questa antologia come fosse il risultato dell'unica selezione possibile, giusta e sacrosanta, noi non lo sappiamo né lo possiamo sapere. Con semplicità e modestia vorremmo vederci riconosciuto il diritto a dire la nostra, con la consapevolezza tuttavia che la nostra vale quanto quella altrui, che la letteratura, come ogni altra forma di arte, può essere questione di gusti e di sensibilità e di culture diverse. Così è ben plausibile che a qualcuno non sia piaciuto Proust e a qualcun altro Faulkner abbia fatto venire il mal di pancia, e in una visione non ingenuamente realista e non intollerabilmente classista della vita, in una visione che sappia attribuire agli esseri umani la loro responsabilità nel costruirsi singolarmente e collettivamente i propri valori, ciò né deve stupire né può scandalizzare. Se gli intellettuali che governano la mercanzia libraria hanno proprio voglia di meravigliarsi e di scandalizzarsi, tuttavia le occasioni non mancano, anche se magari di segno opposto a quelle che tanto interessano loro. Tempo fa un amico carissimo mi ha mostrato il testo di un documento che aveva ottenuto al costo di un subdolo e fortunato spionaggio. Era riuscito a mettere le mani sul giudizio conclusivo che i vari consulenti di una nota casa editrice avevano espresso nei riguardi di un suo libro che gli aveva inviato alla casa editrice medesima nella speranza di vederselo pubblicato. Orbene, dopo un paio di pagine di lodi varie e di annotazioni più che lusinghiere sulla struttura dell'opera, la sintesi conclusiva era la seguente. Un misto, insomma, di critica letteraria e di analisi socioculturale, retto da un'ironia sagace, uno stile ricercato. Il libro è un divertimento colto che rende accorti sui trucchi del vivere e del narrare. Beh, io come ho letto queste ultime righe ho fatto ovviamente i complimenti all'amico. Gli ho detto che non mancherò fra i suoi primi acquirenti e l'ho pregato di continuare a salutarmi anche quando sarà diventato celebre. Beh, lui sì che mi ha guardato stupito e scandalizzato, perché se è vero che quello era il giudizio, era anche vero che il libro gli era stato rinviato a casa con un secco rifiuto. sarà stato anche bravo, quel mio caro amico, anche bravo a rendere accorti dei trucchi del vivere e del narrare, ma non aveva ancora capito nulla su come si può fare a questo mondo per farsi pubblicare quanto della propria vita si concretizza in proprie narrazioni.